Abbiamo appunto appreso nelle settimane scorse di questa imminente trasferimento di alcuni giovani detenuti tra i 50 e i 70 al carcere della Dozza per ragioni di sovraffollamento negli istituti penali minorili del nostro paese. Questa scelta è stata una scelta improvvisa che non ha visto il coinvolgimento degli enti locali, in particolare il nostro, e questo diciamo ha portato prima di tutto alla mobilitazione in consiglio, quindi ci sono stati vari gruppi consiliari che hanno fatto domande di attualità, interrogazioni, abbiamo presentato anche un ordine del giorno e dopodiché c'è stato il lancio di questo presidio che è partito da Volt, che una settimana fa ha fatto un post su Instagram, e noi diciamo ci siamo accodati a questa chiamata e come gruppi consigliari abbiamo tutti aderito, insomma, provando a spargere ulteriormente la voce, perché crediamo che quanto si sta verificando è molto grave e preoccupante, perché non ci sono strutture attrezzate all'interno del carcere della Dozza per accogliere questi giovani e i percorsi educativi sono seriamente messi in pericolo. Anche i garanti comunale e regionale hanno espresso preoccupazione. La causa, diciamo, di questa idea è il sovraffollamento, come dicevi tu, però anche questo sovraffollamento è determinato da leggi che colpiscono i minorenni. Esattamente, purtroppo questo trasferimento rientra chiaramente all'interno di un più ampio progetto da parte del governo, che è il decreto Caivano, che ha rimpinguato le carceri, soprattutto le carceri minorili in questo periodo, e dove già diciamo negli ultimi anni c'era un problema di sovraffollamento, di fatto questa situazione è diventata insostenibile, e a fronte anche di alcuni lavori di ristrutturazione che dovranno essere fatti in alcuni istituti penali minorili, l'aumento diciamo della popolazione detenuta è ulteriormente grave. Questo dispiace ancora di più perché comunque il sistema di giustizia minorile nel nostro paese era un sistema che aveva diciamo una tenuta, pensando anche solo al carcere del Pratello, quando i numeri erano la metà, anche i percorsi educativi a partire dall'osteria fino al teatro, insomma, erano numerosi e avevano anche un senso. Nell'attuale condizione diventa veramente complicato svolgere tutte quelle che sono le possibilità e i percorsi educativi che erano previsti, e questo di fatto rende sempre più simile un istituto penale minorile a quello che è un istituto per adulti. Quali potrebbero essere le alternative a questo trasferimento? Ma sicuramente il primo pensiero da fare è quello di intervenire sulle leggi, insomma, che sono state fatte nell'ultimo periodo a livello nazionale, perché il problema sta a monte. Certo è che su questa situazione di particolare emergenza, quantomeno continuare a tenere i minori in strutture che abbiano una capacità diciamo di riabilitazione educativa è la priorità, quindi anche valutare la possibilità di ricorrere a comunità, a percorsi alternativi al carcere, piuttosto invece che aggravare la situazione detentiva e diciamo anche compromettere fortemente un eventuale percorso di recupero. E ciò che preoccupa ancora di più è che i ragazzi destinatari di questa previsione, di questo spostamento che è già in atto, sono proprio quei ragazzi che rispondono meno alle proposte educative. Questo non lo dico io, ma lo dice appunto il testo che ha disposto questo trasferimento. Anche se, come dire, sarebbero in una sezione separata del carcere della Dozza, però avrebbe un forte impatto questa loro detenzione in quel luogo. Sì, certo, perché comunque si tratta di una struttura, come dicevo prima, che non ha un'organizzazione apta ad accogliere delle figure giovani, dei minori, dei giovani adulti. Si tratta appunto di una situazione provvisoria, temporanea, è stato detto anche questo, però ecco, anche se provvisoria e temporanea, è certamente una situazione non adatta, oltre al fatto che appunto ciò implica anche lo spostamento di altri detenuti, cioè gli adulti che fino a poco fa erano in quella sezione, e quindi certamente un disagio doppio.